E buonasera a tutte e a tutti all'ascolto, buonasera cari compagni, care compagne, fratelli e sorelle all'ascolto. Questa qui è Entropia Massima e questa qui è Libera Scienza e Libero Stato. Siamo tornati, puntata del 20 novembre, siamo qui e col comandante Jacopo e col nostro ospite che come al solito vi introdurremo fra poco. E va bene, eccoci qua, cominciamo, va bene. E come al solito cominciamo dai saluti. E benvenuti e benvenute. E niente, prima di tornare a parlare, anche stavolta torneremo a parlare di scienza, lo stiamo utilizzando, viste le notizie che arrivano da tutte le parti, in particolare dalla Palestina, e lo stiamo utilizzando anche come un balsamo, questo tornare a parlare di scienza. Oggi cominciamo con, prima di lasciare la parola al comandante Jacopo e bando alle ciance, introduciamo subito il nostro ospite per non perdere tempo in introduzioni che te la so manco ho scritto, quindi non ce l'abbiamo questa volta. E cominciamo soltanto con la notizia che oggi insomma è stato raggiunto per la prima volta il record di temperatura media globale, e poi ne parleremo meglio, 2.06 rispetto all'era preindustriale, quindi è sempre più confermato la tendenza all'incremento della temperatura, e già stiamo a 2, la temperatura registrata è stata di 2 gradi, la temperatura ovviamente non media annuale, ma la temperatura occasionale, insomma il picco per ora, speriamo che non salga. E quindi niente, approfondiremo temi scientifici, arriveremo a parlare anche della comunicazione nella scienza, del ruolo della comunicazione nella scienza, e ovviamente anche un pochino del posizionamento della scienza. In fondo l'anno scorso, lo dico pure per il nostro ospite che è qua, l'anno scorso abbiamo tentato, non so se correttamente o no, comunque abbiamo tentato di scrivere un manifesto della libera scienza nel libero stato. Questo qui, il nome della trasmissione deriva proprio dal titolo del libro di Marguerite Hack, da lì siamo partiti un paio d'anni fa, siamo partiti da lì analizzando pure tutti i vari meccanismi di interazione tra la scienza e il potere. Il primo ciclo di trasmissioni è basato su alcune cose che erano successe anche intorno addirittura al terremoto dell'Aquila, era intorno ai rapporti della scienza e potere, e da quello ci siamo spostati a cercare di dedurre, di sintetizzare dall'insieme dei nostri ospiti una serie di elementi che potessero descrivere le caratteristiche, come deve essere, cioè qual è la libertà della scienza in realtà in questo paese, e che caratteristiche dovrebbe avere l'approccio alla scienza nel nostro paese per essere veramente libero, ammesso che lo sia. E quindi tutto sommato la riflessione continua su quell'onda, anche se poi abbiamo chiuso prima o poi lo sistematizzeremo il manifesto della libera scienza, che comunque siamo riusciti a scrivere. Gli eventi bellici, sia quelli attuali sia quelli più datati, quelli dell'anno scorso, hanno imposto una nuova riflessione rispetto anche al ruolo della scienza. Ne parleremo forse meglio in una puntata apposita di cui stavamo pensando, parlando per cercare di vedere un po' tutti un po' meglio tutte le varie i vari ragionamenti che stanno avvenendo intorno a questa cosa, al fatto che forse la neutralità della scienza certe volte secondo alcuni deve essere abbandonata, secondo altri invece deve essere mantenuta a tutti i costi, diventa un baluardo. Insomma, lo affronteremo, no comandante? Aspetta che ti alzo il microfono. Benvenuto anche al comandante Jacopo, che non veniva su questi schermi, anzi su questi ormai microfoni da un bel po'. Ormai ti ho dato piena autonomia. Ecco, grazie, mi hai insegnato il mestiere e mi hai liberato dagli orpelli intellettuali. Ti lascio camminare con le tue gambe. Oh, io ti lascio la parola. Ma ormai invece l'hai occupata questa radio. O da tecnico, no? A seconda delle trasmissioni faccio le pulizie, sistemo. Sì. Le necessità. Vabbè, in questa teoria, vabbè, parla tu, va, dai. Come si diceva una volta, a seconda proprio delle proprie necessità e bisogni. Va bene, sì, grazie, buonasera a tutti e a tutti. Sì, questa sera continuiamo a parlare di scienza in senso lato, sia da un punto di vista strettamente divulgativo, perché lo facciamo sempre, questo lo abbiamo sempre fatto, diamo spunto un po', diamo informazioni, cerchiamo di far interessare insomma i radioascoltatori che ci seguono, alle varie tematiche della scienza che in questo periodo è tenuta ad affrontare, le problematiche, la frontiera che c'è nella ricerca scientifica, sia nelle scienze, nella fisica più strettamente parlando, ma abbiamo spaziato fino alla farmacologia rispetto al Covid, alle terapie che ci sono state per sconfiggere il Covid, eccetera, appunto alla fisica dell'atmosfera, alla climatologia, alla geologia, e adesso questa sera lo facciamo, riprendiamo un po', come dice Chiara, l'hard science, perché ritorniamo a parlare col nostro ospite di astrofisica, di cosmologia, di evoluzione galattiche. E lo facciamo con il dirigente di ricerca, ci abbiamo qui proprio fisicamente presente, Francesco Silos Labbini. Francesco Silos Labbini, appunto, ho detto, è un dirigente di ricerca e lavora al centro di ricerche Enrico Fermi di Roma, un centro di ricerca. Adesso lui ci parlerà anche di questo centro di ricerca, perché si trova ed è una continuità storica con il vecchio centro, vecchia università, come tutti spero conoscano, di Via Panisperna, all'epoca nel 1900, nei primi anni del Novecento, in cui videro l'avanguardia della fisica moderna svilupparsi proprio in questo centro, attraverso appunto le menti di Enrico Fermi, Pontecorvo, Emilio Segre, eccetera eccetera. Francesco Silos Labbini si occupa, appunto, come abbiamo detto, la sua principale attività di ricerca è la cinematica della Via Lattea, delle galassie esterne e la dinamica dei sistemi autogravitanti finiti, nonché appunto della fisica dei sistemi complessi. Ha un blog dove però lui si occupa appunto anche delle problematiche che noi qui tentiamo di evidenziare, di discutere, di riflettere, appunto del ruolo della scienza nella società, quindi scienza, politica e società. Scrive di tanto in tanto anche, non so, per chi legge il Fatto Quotidiano, scrive anche lì di tanto in tanto. Buonasera Francesco, ti presento. Buonasera a voi, grazie per l'invito. E allora la prima domanda, ecco, proprio come cappello introduttivo, tu lavori al centro di ricerche Enrico Fermi, uno dei più grandi scienziati italiani e del mondo, pioniere della fisica nucleare moderna. Questo centro è storico, ha una valenza storica, ci parli di questo centro perché si trova in via Panisperna. È difficile da visitare, come mi dicevi prima, ma ha una storia molto importante, ormai da un secolo. Eh sì, allora, questa palazzina era la palazzina dove era insediato il Regio Istituto di Fisica, che era l'istituto di fisica prima che la Sapienza venisse fondata. E diciamo, in quella palazzina è passata la storia della fisica, perché è stato fatto la prima fissione del nucleo dell'uranio, anche se poi non se ne erano accorti, ma comunque hanno scoperto Fermi e i suoi collaboratori, i famosi ragazzi di Via Panisperna, le proprietà dei neutroni lenti, che sono alla base, diciamo, dell'uso della fissione nucleare per produrre energia, cioè sia attraverso le centrali nucleari ma anche con la bomba atomica. Ecco, questa sede adesso si trova all'interno della sede del Ministero degli Interni di Roma, quindi sì. È difficile, cioè uno non è che passa per via Panisperna e dice ah, ecco qui il vecchio istituto. Ad alcuni di noi non ci farebbero entrare. No, però so che c'erano diversi progetti che poi forse andranno in porto, forse no, comunque di scorporare in un certo senso la sede per essere più fruibile da un punto di vista proprio... Sì, perché questo istituto stava accanto al Palazzo Grande del Viminale, che all'epoca era anche la sede del governo, poi dopo è stato spostato a Palazzo Chigi dopo la guerra, dopo che hanno fatto il Ministero degli Esteri alla Farnesina, e quindi è stato inglobato in una specie di compendio, che è un piccolo villaggio, diciamo, circondato da un muro di cinta, ed è stato per 40 anni, diciamo, ad uso del ministero. Prima era una funzione militare, poi hanno spostato l'archivio della polizia, insomma, varie cose, diciamo, non esattamente corrispondenti all'importanza di questa palazzina che ha avuto per la storia della scienza. E quindi alla fine degli anni 90 è stata fatta una legge, stranamente approvata in maniera bipartisan, per istituire un museo della fisica e un centro studi e ricerche, che è stato, diciamo, alla fine fatto. La palazzina è stata consegnata dopo 20 anni, nel 2019, quindi è anche in un certo senso fresca. Sì. E però il museo esiste, e però ancora non è stata fatta l'apertura verso l'esterno, nel senso che per entrare dentro questa palazzina e quindi anche dentro il museo bisogna entrare dentro il Ministero degli Interni, che è una cosa un po' complicata perché comunque è un ministero alta sicurezza, bisogna fare i passi, i metal detector, non è una cosa immediata, quindi è un po' complicato. Per le scuole è possibile prenotare una visita, basta andare sul sito del centro ricerche e uno può prenotarla e quindi può portare le classi. E per i singoli è un pochettino più complicato, ci sono degli open day una volta al mese mi sembra in cui uno può andare. Va bene, speriamo che diventi più fruibile perché sì, è proprio un patrimonio storico e culturale, certo, italiano. Vabbè, ritornando un po' su invece sulla scienza di frontiera, hai detto tu ti occupi di dinamica della Via Lattea e delle galassie esterne. Innanzitutto diciamo che la Via Lattea è la nostra galassia, poi ci sono le galassie esterne. Di dinamica delle galassie della Via Lattea si presuppone in questo caso, penso, immagino che si stia parlando di, in questo caso se è un argomento di ricerca di frontiera, anche della materia oscura, di quello che adesso è il dibattito principale da questo punto di vista. Esiste o no questa materia oscura, quali sono? Abbiamo fatto già diverse puntate cercando un po' di capire sia da un punto di vista teorico sia da un punto di vista sperimentale, andando proprio nei laboratori di fisica nucleare degli NFN del Gran Sasso, dove si cerca di carpire qualche segnale di questa materia oscura in maniera diretta, non in maniera indiretta, da un punto di vista gravitazionale. E quindi tu ti occupi proprio, tu mi hai detto pure a un certo punto, sì, però è un argomento abbastanza delicato questa materia oscura, perché c'è da capire effettivamente perché sembra un po' la panacea, insomma, di quando la mettono un po' ovunque. Ecco, questo tu mi hai suggerito, però spiegaci meglio, ecco, cosa vuol dire dal punto di vista scientifico. Rimaniamo è un po' come, che ne so, il peperoncino. No, anzi, il contrario, quando non sai che dire dici quando c'hai un problema che non sa risolvere, ecco, c'è la materia oscura. Di materia oscura gli dici anche quali sono le proprietà, e le proprietà in generale sono la differenza tra la teoria e l'osservazione. Ecco, questo detto in maniera un po' scherzosa. È un argomento molto interessante che insomma è di frontiera. Però, sicuramente ci sono delle evidenze che esiste della materia oscura, che sarebbe della materia che non si vede perché non emette radiazione elettromagnetica o ne emette troppo poco per essere osservata, e però uno può dedurre la presenza di questa materia oscura attraverso la sua interazione gravitazionale. In particolare quello che stiamo studiando in questo momento è la cinematica della nostra galassia e delle galassie esterne. Cioè, cosa vuol dire? Si vuol dire che si osservano nelle galassie a spirale, che sono delle galassie a disco, si osservano le velocità di rotazione. In generale si osserva si può misurare la velocità delle stelle, e dalla velocità uno può dedurre la massa, supponendo che questi oggetti siano in equilibrio. Cioè, come nel sistema solare ci sono le leggi di Keplero, no? E noi sappiamo che Mercurio gira più, ruota intorno al Sole più rapidamente della Terra, e che ruota più intorno al Sole più rapidamente di Giove, eccetera, eccetera. Anche per le stelle uno si aspetterebbe una situazione analoga. E invece quello che si osserva è che non è esattamente così, perché mentre la massa è concentrata verso il centro della galassia, nelle zone lontane la velocità di rotazione continua a essere molto alta, molto più alta di quella che uno si aspetterebbe se la massa fosse concentrata dove c'è roba che emette luce. E quindi da qui dice, vabbè, allora ci sarà una parte della massa che non si vede ed è materia oscura. E fino a qui, diciamo, ci siamo. Dopodiché ci sono varie ipotesi di come è fatta questa materia oscura, di che proprietà abbia, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle teorie che ipotizzano la materia oscura abbia delle proprietà esotiche. Esotiche significa che non che sta ai Caraibi, ma che che ha delle proprietà che non si sono ancora mai osservate, diciamo, sulla Terra negli esperimenti in laboratorio, ma sono ipotizzate, e quindi sono delle cose abbastanza strane. E uno appunto organizza questi grandi esperimenti come sotto al Gran Sasso, che sono dei grandi osservatori per cercare di trovare queste particelle strane che interagiscono molto poco con le particelle normali. Quindi uno deve fare degli esperimenti molto molto sofisticati. E però appunto per capire quanta ce ne sta uno deve fare dei modelli, studiare le velocità di rotazione e fare dei modelli della distribuzione di massa. E questo è quello che stiamo facendo noi, perché da una parte ci sono delle osservazioni nuove che vengono da questi satelliti, no? Sappiamo i satelliti che girano intorno alla Terra, c'è cioè l'Hubble Space Telescope, il James Webb, e poi ci sta quest'altro satellite che si chiama Gaia, che sta facendo delle misure astronometriche, cioè in pratica misura la posizione spaziale tridimensionale delle stelle e anche il vettore velocità, cioè dice anche dove ogni stella in che direzione si sta muovendo e con quanta altezza. Quindi da questo tipo di misure uno può ricostruire campi di velocità, e dai campi di velocità puoi fare dei modelli per ricostruire le distribuzioni di massa. E quindi capire quanta ce ne sta anche di materia oscura. Esattamente. Ora, questo va pure oltre appunto la Via Lattea, ma questo è un discorso che va riferito pure alle altre galassie. Certo, delle galassie esterne uno non osserva le singole stelle, ma osserva, diciamo, dei pezzi di galassia tutti insieme, ma anche lì se uno può misurare queste velocità rotazionali, radiali, eccetera, di pezzi di galassia e fare dei modelli anche per quel tipo di galassie lì. Quello che noi abbiamo fatto, diciamo, di innovativo adesso che stiamo facendo, è che invece di ipotizzare che la materia oscura sia distribuita, diciamo, in una sorta di palla intorno al disco, ma che la materia oscura sia schiacciata sul disco come la materia luminosa, solamente che decade, cioè decresce un pochettino meno rapidamente, e in particolare decresce come l'idrogeno, perché l'idrogeno è un tracciante che non è distribuito come la luce che sta al centro, ma decresce meno rapidamente. Quindi se uno ipotizza che l'idrogeno sia solamente la punta di un iceberg, di una distribuzione di massa più grande, diciamo, può rispiegare le osservazioni in maniera abbastanza semplice. Quindi in questo senso l'idrogeno sarebbe la parte visibile, o comunque l'unico elemento in questo caso qua visibile, osservabile realmente tramite lo spettro, insomma l'abbiamo detto, di questa materia oscura, sarebbe almeno un elemento. Quindi rispetto materia oscura potrebbe anche essere idrogeno più freddo, perché idrogeno se sta a una certa temperatura emette una certa linea che certo. Si chiama linea 21 centimetri, che si osserva con radiotelescopi. Se è più freddo, diciamo di 15 Kelvin, sta in delle nuvole, in delle ammassi, però è praticamente molto molto difficile da vedere. Emette sempre un po' di radiazione termica, ma è veramente complicato osservarla. Giusto per dare dei numeri, per far capire, insomma, noi ci riferiamo a tutto quello che noi chiamiamo massa osservabile e quello che emette luce, appunto, che noi riusciamo a vedere, che più o meno è il 5%, cioè si presuppone adesso con questa introduzione della materia oscura, si è data una stima, prima si pensava che l'universo fosse composto solo di materia visibile, invece adesso con questa materia oscura e si ridanno un po' delle proporzioni. Diciamo, manteniamoci bassi, nel senso che quando arriviamo alle scale cosmologiche, diciamo, le evidenze sono altre e il problema è diverso, nel senso che uno deve introdurre tantissima materia oscura perché ci sono delle evidenze che vengono interpretate in una certa maniera che richiedono l'introduzione del 95% della materia dell'universo è materia oscura, cioè che non si è mai osservata. Invece per la nostra galassia, diciamo, la materia oscura nei modelli normali è un fattore 10 in più di quella luminosa, nella nostra ricostruzione sarebbe solamente un fattore 2-3, diciamo, cioè ce ne vuole un po' di più, ma non è questa cosa sconvolgente. Quindi, cioè, così a buon senso sarebbe una cosa più verosimile, insomma, anche perché a quello che dicevamo prima, cioè nel senso introdurre materia oscura subito quando si devono spiegare dei fenomeni nessun'altra prova sperimentale, a me questa storia mi piace di più, perché diciamo risolvere un problema attraverso l'introduzione di una grandissima quantità di materia oscura di cui non si conosce cosa sia, che ha una distribuzione completamente diversa da quella visibile, perché quella visibile abbiamo detto è schiacciata ed è un disco che ruota, quella oscura sarebbe una palla e quindi una palla non ruota, cioè una distribuzione di velocità isotrope, ma è completamente diversa da un punto di vista dinamico. A me è un modello che lo trovo, diciamo, antiestetico, se non altro. No, ma certo, detto così sembra quasi che ci sia un ignoto non riconducibile neanche alle categorie dicibili, no? Non riconducibile neanche alle categorie misurabili nell'altro caso, no? E che quindi tu intervieni cioè fai ricorso a questa specie di Deus ex machina. Invece, se tu riduci molto, riconduci tutto quanto a delle categorie che potenzialmente saranno misurabili rilevabili, osservabili, addirittura dicendo che è un elemento più freddo, non devi neanche uscire dalla fisica, perché a me quello mi ha sempre fatto impressione da profano, no? Da esterno, la cosa, quando parlammo per la prima volta di questo era uscito un articolo su Micromega, mi ricordo, me l'ero letto, era questa necessità di andare fuori, no? Ok, quello è un'altra cosa, è altro da noi, non l'abbiamo ancora scoperto, non l'abbiamo ancora, ci deve stare, ma non sappiamo né che è, né com'è, né come si muove, né di che è fatto, e non lo vediamo nemmeno. Insomma, invece il tentativo di ricondurlo almeno a categorie descrivibili, al dicibile, insomma, sì, è un po', diciamo, la parte interessante che vedo io è soprattutto quella di trovare delle osservazioni che si possono fare, diciamo, nell'immediato futuro, certo. Cioè non tra 50 anni, che poi a me non mi interessa più personalmente, diciamo. C'è una prospettiva anche personale, no, cioè non è più divertente, nel senso, a 50 anni, cioè, vabbè, poi vedremo chi ci sarà, vedrà. Invece, diciamo, l'idea che adesso ci sono questi nuovi satelliti che possono fare osservazioni molto sofisticate e utilizzare questi satelliti per vedere effettivamente, diciamo, semplicemente se la distribuzione di massa è sferica oppure è a disco. Questo è possibile attraverso, per esempio, gravitational lensing, che è una cosa che per cui si faranno delle osservazioni nell'immediato futuro, diciamo. Speriamo. Va bene, io direi di fare una pausa musicale e tiriamo il fiato. Ok. E allora rieccoci in voce, sfumiamo il bellissimo pezzo delle Coco Roco a Music Junction, che è un, appunto, uno dei gruppi più interessanti del new jazz londinese, no, veramente di qualche anno fa, non mi si sente neanche troppo, di qualche anno fa erano, perché ormai siamo rimasti indietro qua, l'età avanza caro comandante, e uno quello che pensa che è uscito da poco, ormai sono passati già 5 anni, ecco, appunto. Però insomma sono un gruppo interessante, se ogni tanto vengono a suonare a Roma, è molto femminile, ci stanno queste, c'è una trombettista e una sassofonista meravigliose, sono molto bravi, e in particolare hanno fatto dei pezzi che ricordano, che mischiano un pochettino il jazz, il new jazz inglese con qualche tradizione, diciamo, di sentore africano. Questo pezzo qui c'ha tutta sta chitarra che ricorda un po' le sonorità del West Africa. Vabbè, vi siete beccati pure questa lezione da ascoltatore, così. Insomma, invece torniamo a parlare, avevamo appena finito di parlare della materia oscura, o comunque col nostro ospite, è molto interessante anche il discorso che c'è intorno alla capacità della scienza, no, di rimettersi in discussione, passare da una cosa che sembra così evidente a tutti a una, invece, a rimetterla in crisi, a proporre una teoria diametralmente opposta, perché appunto passare dal 90% al 2%, insomma, semplifico eccessivamente, è proprio tipico, può avvenire anche attraverso scontri e discussioni accese, però soltanto in un ambito scientifico non dogmatico e religioso, in cui la realtà è fissa e immutabile. Quindi, dopo detto ulteriore stupidaggine, ridò la parola al comandante Jacopo e mi dedico alla musica. Adesso passiamo, qui ci sarebbe da dire anche l'energia oscura, ma per non tediare troppo, per non confondere troppo i radioascoltatori, ecco, lasciamo adesso, passiamo a un altro aspetto di cui si occupa Francesco, che è la fisica dei sistemi complessi, perché se facciamo un passaggio graduale anche verso, adesso noi abbiamo parlato proprio della fisica, diciamo, teorica dell'evoluzione dell'universo, questo modo, no, questo cercare di interpretare l'universo, di capire le leggi, però questo è un aspetto, diciamo, come dire, che non, diciamo, che influisce poco in questo momento sulla realtà, mentre ci sono altre branche della fisica, come per esempio la fisica dei sistemi complessi, invece in questo momento sono molto importanti. Perché viene chiesto alla fisica, viene chiesto agli scienziati anche di valutare e di risolvere dei problemi imminenti, che sono, appunto, come tutti sappiamo, quello del riscaldamento globale. Perché dico questo? Perché ovviamente arrivare a determinare a una visione, si è giunti a questa visione del fatto che l'uomo sta portando delle modifiche fortissime al clima, ovviamente questo ha richiesto anni e anni, decenni di studio da parte, appunto, di climatologi, di fisici, di tutti, insomma, quelle branche delle scienze naturali, che hanno portato a una visione, a delle conclusioni molto importanti, che sono quelle, appunto, del fatto che l'uomo, con l'immissione dell'anidride carbonica in atmosfera, quindi col bruciare dei combustibili fossili, sta alterando in maniera irreversibile il clima. E questa è una parte, appunto, della fisica dei sistemi complessi, perché l'atmosfera, la fisica atmosfera, è un sistema molto complesso. Ultimamente è stato dato pure un premio Nobel, no, a Parisi, a uno scienziato italiano, proprio per questi studi sulla dinamica, sulla fisica dei sistemi complessi. Francesco si occupa anche di questo, ha scritto tantissime cose sia da un punto di vista scientifico, ma si è occupato, appunto, proprio del meccanismo di relazione, di comunicazione che la scienza ha in queste argomentazioni, che ovviamente sono argomenti molto più scottanti, sono argomenti che secondo noi, ma siccome, appunto, vanno a toccare poi scelte politiche, scelte economiche fondamentali, come ormai tutti sappiamo, sono oggetto di controversie anche da un punto di vista sociale e politico. E quindi volevamo introdurre questo discorso perché, appunto, hai scritto e ti sei impegnato molto. Sì, allora, la fisica dei sistemi complessi io la studio nel senso di capire come funzionano i sistemi autogravitanti, che sono composti da tante particelle che agiscono in maniera non lineare, perché l'interazione gravitazionale non è lineare, e quindi in questo loro, diciamo, in questo comportamento collettivo si formano, emergono, diciamo, delle proprietà che non sono chiaramente semplicemente deducibili dalla conoscenza di come si muovono i singoli punti. E quindi in questo senso la visione dei sistemi complessi è soprattutto metodologica, cioè un metodo per studiare dei sistemi composti da tante parti in interazione tra di loro. E sicuramente il problema gravitazionale è piuttosto complicato, però anche il problema del clima, per esempio, lo è. Allora, io mi sono posto soprattutto il problema di capire il senso delle previsioni nei sistemi complessi, perché le previsioni, diciamo, sono state utilizzate nella scienza, per esempio nell'astronomia, come un test delle teorie scientifiche. Cioè, io prevedo che Nettuno deve stare là, invece sta un po' più a destra, e quindi dice perché è così, dice forse perché ci sta un altro pianeta che perturba un pochettino l'orbita, e quindi capisco che c'è Urano. Oppure invece c'è stato nel moto di Mercurio, che, diciamo, non tornava rispetto alla dinamica newtoniana, e lì, per capire che, diciamo, perché quest'orbita di Mercurio era un po' diversa, è stata introdotta una nuova teoria della gravità, che è la teoria della relatività generale. Uno dei grandi test della teoria della relatività generale, almeno 100 anni fa, era la processione del perieo di Mercurio. E invece, quando passiamo per esempio alle previsioni del tempo, le previsioni meteorologiche, non è più così. Non è che se io faccio una previsione sbagliata, cioè, allora la mia teoria è sbagliata. Non è così, perché le previsioni la teoria si conosce, è fluidodinamica, termodinamica. Dopodiché ci sono degli effetti che sono molto difficili da modellizzare, sono degli effetti locali, però, diciamo, la fisica si conosce di quel sistema. Il problema è fare una previsione giusta, e questo diventa un problema, diciamo, non è più tanto un problema scientifico, ma è un problema d'uso sociale, nel senso che è una previsione che mi serve qui ed ora, mentre la previsione scientifica, diciamo, il tempo storico non c'è, non è importante. Invece mi serve di sapere se domani arriva l'uragano, se domani arriva la bomba d'acqua, o se sarà bel tempo e faccio il picnic. Allora, questa cosa qui cosa richiede? Richiede, da una parte, l'utilizzo dei big data, perché uno deve fare delle fotografie molto accurate, cioè devi sapere lo stato del sistema adesso, poi prendi dei super computer in cui metti dentro la fisica, evolvi e cerchi di capire com'è il sistema domani. E questa qui è una previsione, diciamo, statistica, nel senso, uno, se non avete mai visto questi spaghetti, questi grafici a spaghetti in cui ci sono le probabilità che il sistema vada da una parte o vada dall'altra. Quando gli spaghetti sono abbastanza, diciamo, stretti, allora la previsione è buona. Quando a volte sono larghi, questo dipende dalle micro condizioni. Per esempio, fare una previsione nel deserto del Sahara è sicuramente più semplice che farlo tra le Alpi svizzere, perché chiaramente le condizioni microclimatiche sono diverse. Facendo un ulteriore passaggio, che è quello del clima, la situazione è più difficile, perché il clima, diciamo, innanzitutto uno non vuole sapere la previsione in un tempo, diciamo, di giorni, ma come si sta evolvendo su scale di decenni o di centinaia di anni, eccetera. Quindi già quello è un problema, perché le misure, le osservazioni sono più problematiche per quelle scale là di tempo. E chiaramente anche lì tutta la fisica che si svolge su quelle scale spaziali, quindi più grandi di 10 chilometri, diciamo, e su dei tempi che vanno su dell'ordine dai 10 anni in su, diciamo così, è più complicata da capire, insomma, anche perché ci possono essere degli effetti esterni. Per esempio, si sa che la variazione di radiazione solare ha inciso sul clima, e questo è sicuramente indubitabile. Se adesso il cambiamento climatico in atto sia dovuto all'irraggiamento solare, sicuramente no. L'irraggiamento, cioè, adesso ormai da una 30ina d'anni almeno a questa parte, agli anni 60, 50, anni sappiamo, diciamo, con certezza che c'è una correlazione tra l'emissione di gas serra e riscaldamento. Correlation is not causation, però insomma ci sono degli indizi che vanno al di là di ogni, diciamo, ragionevole dubbio che l'emissione dovuta all'attività umana sta cambiando il clima in maniera sempre più rapida, purtroppo. Ecco, quindi io partendo da queste ultime cose che hai detto, questa forte correlazione è una correlazione che non è più opinabile. Cioè, è questo il punto. È una certezza nell'incertezza dei modelli e del modo di ragionare della scienza, è una certezza. Questo è il punto. Rispetto a questo, però, se ne fa cattivo uso proprio di questo tipo di considerazioni. Ci si innesta tutto un ragionamento di negazionisti, di cui ormai ne siamo ben consapevoli, molte volte compaiono alla ribalta delle cronache proprio perché dicono che invece non è vero. Però se uno va a guardare poi, come dicevi tu, quello che scrivi, che è scritto, rispetto alla totalità delle pubblicazioni che convergono appunto a questa certezza, a questa grande correlazione, gli unici che dal punto di vista appunto di pubblicazioni scientifiche è meno dell'1% che dichiara invece che questa correlazione non esiste, quando invece sembra che attraverso il meccanismo mass mediatico, come quando vengono invitati questi negazionisti, sembra che invece sia alla pari, cioè stiamo ancora ragionando sul fatto che la mia teoria opinabile, cioè può essere soggetta a revisione, quando invece in questo caso sta parlando meno dell'1% rispetto alla, diciamo, alla totalità della comunità scientifica internazionale, invece che ti sta dicendo e ti ha detto da un punto di vista scientifico che invece questa correlazione esiste ed è importantissima. Sì, certo. Allora, la questione fondamentale è che il clima è, come l'astrofisica, è una scienza osservativa, cioè tu non è che puoi fare un esperimento come lo fai al CERN, cambi le condizioni e vedi che succede. Non è così, tu devi osservare e dalle osservazioni cerchi di costruire un quadro coerente. Quindi sicuramente, se vogliamo, da un punto di vista epistemologico è una scienza meno forte della fisica delle particelle, per esempio, no? Però d'altra parte ci sono delle evidenze adesso che nessuno mette in dubbio, cioè chi le mette in dubbio, diciamo, in generale è al di là dei confini della scienza. Ci sono di tanto in tanto, possiamo dire che anche in malafede, ma quello non lo so, insomma, certamente, diciamo, non ha studiato bene. Se fosse uno studente verrebbe bocciato, ecco. Però magari sono un professore in pensione e quindi così dall'alto della sua pensione può ormai, diciamo, al di fuori del dibattito scientifico, senza conoscere i big data, senza conoscere i supercomputer, senza conoscere la modellistica attuale dei sistemi complessi, eccetera, così dicono stupidaggini facilmente, oltretutto facilmente confutabili. Il problema è che insomma l'impatto mediatico di queste stupidaggini viene amplificato dalla maniera in cui il messaggio viene veicolato. E quindi quando io ho un professore universitario pensionato che mai si è occupato di climatologia nella sua vita, che va a discutere con una ragazza di 20 anni attivista, certamente lui ha un linguaggio più strutturato e quindi sembra che, no, c'ha lì la giacca e la cravatta, quell'altra è un po' scalmanata e fa una figura poco credibile, se vogliamo. Quell'altro sembra, dice, questo è professore universitario, ma è che se è professore universitario non vuol dire nulla, cioè innanzitutto che ha fatto, e poi ci sono professori universitari come bravi e altro. No. Leggendo in uno dei tuoi articoli facevi l'esempio della nota trasmissione dove praticamente veniva sì, invitati, ma dopo lo diciamo, mica non sì possiamo. Ma per introdurre un altro tipo dopo di ragionamento, dopo la pausa lo diciamo. Di cui discuteremo dopo la pausa, è quello per cui questi negazionisti alla fin fine parlano, ma non parlano perché hanno pubblicato nelle riviste di settore, utilizzano canali ben diversi e molto più facilmente accessibili e non sono sottoposti a una critica seria selezionata da un punto di vista scientifico. Però questo ne parliamo dopo. E quindi sembra, sembra che invece parlino sullo stesso piano. Simone, parliamo dopo, perché poi questo rifacciamo il riepilogo di quello che era successo quella famosa volta con la ragazza di ultima generazione e il professore, perché vediamo pure che ruolo poi è stato chiamato dalle più alte sfere. Poi lo lasciamo come suspense e ci sentiamo Miles Day, insomma. E sfumiamo pure Miles Davis, tutto, tanto per oggi quest'anno, grandi classici, questo qui degli anni 80. Marcus Miller, l'arrangiamento l'ha fatto recentemente a una trasmissione che si chiama Propaganda, no? Che sta sulla stessa canale di dove della trasmissione cui faceva riferimento il nostro ospite Francesco, in cui si sono scontrati il professore universitario chiamato Alberto Prestinizzi, ex professore di geologia applicata all'Università La Sapienza, ex prorettore, credo anche, così, ma di titoli lì non si negano a nessuno, e che pubblica in quell'occasione lì, lui aveva presentava una pubblicazione sua negazionista, diciamo, delle conclusioni sul clima della IPCC, quindi del pannello del gruppo mondiale di ricercatori che abbiamo detto tante volte, che fa la revisione, l'analisi critica di tutte le pubblicazioni che sono state pubblicate rispetto ai cambiamenti climatici, al cambiamento climatico in un determinato periodo di tempo, fa la sintesi e da lì deduce in termini tra l'altro statistici, quindi non assoluti, anche se nell'ultimo rapporto è diventato la percentuale di certezza rispetto all'influenza umana sul cambiamento climatico che è diventata certa, da che era molto moltissimo probabile, e invece appunto Alberto Prestinizzi con la sua pubblicazione si confrontava con una ragazza di ultima generazione che giustamente ha preso e se n'è andata, perché in fondo col suo gesto ha dimostrato che l'informazione italiana, che cerca sempre forse questo contrasto, questa opposizione anche su tematiche di cui invece in ambito internazionale o comunque in ambito scientifico c'è accordo quasi completo, non è una informazione, non è un contesto in cui si può stare, no? Lei era andata lì, se n'è andata in modo un po' plateale, ovviamente è stato pure, no? Ha fatto il favore alla trasmissione, non tutti sono capaci di dire, però ha fatto bene a dirgli, voi state a presentare un dibattito che non esiste. Perché non esiste? Perché abbiamo detto tante volte, il clima c'ha questa caratteristica che un filosofo americano definisce essere appunto il clima un iperoggetto, cioè qualcosa, un fenomeno, un oggetto che si muove, esiste su dimensioni spaziali e temporali molto diverse da quelle in cui viviamo noi, e quindi quello di cui noi facciamo esperienza sono gli effetti locali e momentanei del clima, che potrebbe essere la variazione degli eventi meteorologici estremi oppure le siccità estreme, quello che abbiamo sempre detto. Però questa caratteristica degli iperoggetti, in cui abbiamo associato tante cose, anche appunto i buchi neri sono iperoggetti in qualche modo, lo sono in quell'ottica lì, lo sono la tettonica delle placche, no? Perché sono fenomeni che avvengono sotto la terra, tu misuri e registri il terremoto, non registri la tettonica delle placche, cioè abbiamo gli strumenti, grazie alla tecnologia riusciamo ad osservarli, così grazie alla tecnologia riusciamo e alle misure riusciamo ad osservare il cambiamento climatico, l'incremento della temperatura media globale a livello planetario. Perché ci dobbiamo fidare, no? Il tema poi è sempre quello: chi ce lo dice poi in realtà, da dove si deduce questa certezza, come si misura la correttezza perché i critici dell'IPCC dicono pure lì è pilotato, e invece loro dicono no, noi abbiamo revisionato l'ultimo rapporto, base scientifica, hanno circa 14.000 studi che convergono verso quella di tutto il mondo, che convergono verso quella ipotesi, quella certezza ormai. E quindi ecco, per affrontare quest'ultima parte di tema di trasmissione, sempre intorno al tema quanto ci si fida della, come ci si fida della scienza, perché la comunità scientifica, che poi negli ultimi anni è stata appunto, l'abbiamo detto tante volte, al centro di tanti dibattiti, perché con la questione del Covid è venuto fuori anche un'alterazione di questa percezione collettiva del ruolo della scienza. E però per quale motivo, no? Ci si può fidare, per quale motivo ragiona in modi diversi, per quale motivo si può parlare della materia oscura come abbiamo fatto prima, passando da un modello ad un altro, ed essere certi sempre che questa roba avviene in modo affidabile, e invece l'opinione personale un po' è quella anche del professore in pensione che poi diventa direttore del comitato di saggi sul ponte sullo stretto di Messina, quindi dicevamo prima asso chiama 7, nel senso c'è pure lì l'interesse magari di tipo politico, no? di prendere certe posizioni. Che differenza c'è, diciamo, tra la parola della comunità scientifica e quella del professore in pensione o chiunque altro, il senatore geologo altrettanto in pensione? A te, comandante. Beh, adesso ce ne parla Francesco con un episodio emblematico che lui riporta, perché appunto il processo scientifico è sottoposto a revisione, una stretta revisione della comunità scientifica. Cioè, se io ho delle buone idee, se io ho delle idee valide, queste comunque devono essere sempre sottoposte all'opinione, alla revisione della comunità scientifica. Spesso appunto opinioni nuove e rivoluzionarie sono molto più faticose da essere avvalorate, proprio perché devono essere sottoposte, c'è sempre una specie di rispetto al nuovo, ovviamente le idee nuove fanno fatica a emergere, quindi, però grazie anche a questo processo che poi le idee nuove, se sono vere e valide, appunto vengono riconosciute a livello internazionale da tutta la comunità scientifica. Quel professore di cui citavi tu invece ha espresso delle sue opinioni al grande pubblico senza nessun tipo di processo scientifico di revisione, ed è emblematico appunto un articolo, Francesco, che tu avevi scritto, no? Di come appunto a un certo punto però la comunità scientifica rigetta teorie false, teorie che non sono vere, attraverso appunto la pubblicazione e la revisione dei lavori scientifici. Hanno dei limiti, poi ne abbiamo parlato anche, perché poi le riviste dove vengono sottoposti questi articoli appunto soffrono il fatto che sono chiuse. Noi abbiamo parlato del fatto, molti ricercatori ci hanno detto che questo deve essere sottoposto a una vera trasparenza. Queste riviste non hanno proprio una vera trasparenza nella revisione scientifica. I lavori non sono di libero accesso a tutti, perché sono riviste che poi devono essere pagate, sono a pagamento, eccetera eccetera, quindi sono anche lì, ci sono i limiti e sono farraginosi anche molti processi, però possono essere migliorati ed è l'unico modo per fare scienza. Allora sì, diciamo, innanzitutto la prima cosa che mi viene da dire è che la legge, diciamo, universale in tutti i settori dell'umanità è la legge di Cipolla, per cui secondo cui il numero di stupidi è invariante, diciamo, rispetto a qualsiasi gruppo che uno sceglie. Quindi se uno sceglie, non so, i tassisti, i baristi, i conduttori telefonici o i premi Nobel, diciamo, il numero di stupidi è lo stesso. La legge di invarianza, ecco. Importante per la fisica, la legge di invarianza. Esattamente. Quindi questo uno se lo deve sempre ricordare. La seconda cosa è che la peer review è un sistema che viene sempre più criticato e che condiziona tantissimo la dinamica scientifica. Viene criticato perché appunto è un ostacolo all'affermarsi di nuove idee, ma d'altra parte però bisogna riconoscere che è importante per non far pubblicare nella letteratura scientifica le cose più assurde, perché a quel punto ci sarebbe troppa dispersione. Insomma, chiaramente è un punto molto delicato di come funziona tutto il processo scientifico, soprattutto adesso in cui viene richiesto ai ricercatori di pubblicare molto, no? Per andare avanti nella carriera, ottenere finanziamenti, eccetera, eccetera. Mentre prima non era così, era un sistema completamente diverso. La peer review si è affermata, dopo il progetto Manhattan e dopo, diciamo, l'esplosione non solo della bomba atomica, ma anche del numero di scienziati che c'è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, è una situazione complicata, però la cosa importante da dire è che un articolo, per essere, diciamo, considerato un articolo scientifico, è una condizione necessaria ma non sufficiente, deve essere stato pubblicato su una rivista scientifica, quindi di aver passato un processo di peer review, cioè c'è qualcun altro che se lo legge e che dice vabbè, questo è una roba accettabile, qualcun altro chiaramente di quel campo che abbia una cognizione. Poi non è che allora se lo dice quello lì significa che allora quello lì è la legge scolpita nel marmo, no, cioè semplicemente un articolo che si aggiunge agli altri migliaia che vengono pubblicati ogni giorno e che porta una nuova idea e di cui uno potrà discuterne. Però certo, se uno non arriva neanche a pubblicare su una rivista scientifica, cioè semplicemente non esiste nella letteratura scientifica, e quindi punto. No, certo, infatti tu, riparlando un po' del clima, c'era appunto, dicevo, che la quasi totalità di tutte le pubblicazioni convergono, sì, verso il cambiamento climatico. Poi c'è stato l'episodio di una pubblicazione che era beh, lì la questione